9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori. Dopo settimane che le cronache francesi si sono incendiate, da quando a metà luglio, tra il 15 e il 16, in una notte di scontri a Saint-Ignon, un gendarme, un giovane rom hanno riacceso il dibattito in Francia, e ricordo a tutti che è un dibattito che ha spaccato il paese, ha spaccato l'intellettualità, la stampa, ha indotto il pontefice ancora domenica scorsa a rivolgersi direttamente al presidente Sarkozy, chiedendo che venissero rispettati i diritti dei Rom, dei Sinti. Ci sono diversi modi per chiamarli, ma è una vastissima minoranza, stiamo parlando di praticamente 12 milioni di individui, di cui si calcola il 70% hanno un passaporto o comunque una nazionalità che appartiene al novero dell'UE a 27, sono in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea, hanno contemporaneamente una storia che ci è praticamente ignota, non sappiamo se vengono dall'India, se vengono dal Tatarstan, le tradizioni sono molto diverse, hanno una propria lingua, hanno una propria antropologia molto strutturata, una forma organizzativa in cui la famiglia è al centro di tutto, la stanzialità non è affatto un valore, sono nomadi apposta, lavoro, come lo intendiamo noi, non è qualcosa di collegato alla stanzialità, e molte delle loro famiglie praticano poi espedienti. C'è la questione ovviamente del accattonaggio soprattutto per i minori, c'è una questione di difficoltà all'integrazione scolastica, alla stanzialità residenziale. Tutti questi sono i problemi da sempre noti di questa minoranza, che ha una storia di persecuzioni terribili. E dopo il dibattito francese, che riecheggia quello di 3 anni fa, lo ricordo a tutti voi in ascolto, quando, ricordate, ai tempi di Romano Prodi esplose una polemica nei confronti dell'Europa per una direttiva, la direttiva che riguarda le politiche di integrazione dei Rom o Sinti, e la direttiva 43 del 2000, che fu proprio Romano Prodi, quando era presidente della Commissione Europea, a delineare, se non che poi ci fu un rogo nell'estate di 3 anni fa, esattamente nell'agosto del 2007, un rogo a Livorno nel quale morirono 4 bambini Rom, e allora esplose una polemica perché Prodi, presidente del Consiglio italiano all'epoca, disse che le responsabilità erano del mancato coordinamento europeo, e la Commissione Europea, Spidla, gli rispose duramente dicendo che era l'Italia, insieme peraltro a 14 altri paesi dell'Unione Europea, sottoposta a una procedura di infrazione per la mancata applicazione esattamente della direttiva, che è la 43 del 2000, che è volta chiaramente a delineare una molteplicità di politiche di integrazione. Io non voglio farla molto lunga, ricordo solo che questo col problema del coordinamento europeo è un problema molto forte, si è tradotto in una serie di iniziative e di piattaforme molto importanti. L'ultima duplice riunione sotto la presidenza spagnola, sono stati 2 meeting, uno ad aprile e uno a giugno, per fare il punto delle diverse politiche volte all'integrazione della minoranza Rom. Le risorse in teoria ci sono, perché la comunità europea stanzia, tra il 2007 e il 2013 ha stanziato la bellezza di 13,3 miliardi complessivamente nei 6 anni per queste finalità, e il più sono naturalmente rivolte soprattutto ai paesi da cui sono provenienti, cioè essenzialmente la Romania, Slovenia e l'Ungheria. Ci sono polemiche in questi paesi, in Ungheria e in Romania. La Romania perché ritiene che si sbaglino gli altri paesi europei a prendersela con la Romania, e quindi di volta in volta, anche recentemente per via delle politiche francesi, i giornali e la politica romena insorgono dicendo: noi non c'entriamo con loro, è un luogo comune, ma è abbastanza rispondente al vero che tra l'altro i cittadini rumeni e gli immigrati rumeni nei paesi europei, anche sono numerosissimi nel nostro paese, siano i primi ad avere pregiudizi e giudizi molto netti nei confronti dei Rom. E in paesi come l'Ungheria, per esempio, ferve un grande dibattito sui media proprio in queste settimane, perché il problema è che l'Agenzia Nazionale per l'Integrazione dei Rom è accusata di sprecare i soldi europei, di avere legami esattamente con famiglie, diciamo, mafiose all'interno dei gruppi Rom, che gestiscono traffici internazionali. piuttosto che adoperarsi per risolvere il problema. Detto tutto questo, nel nostro paese è una responsabilità quella dei campi nomadi, della sicurezza e delle politiche di integrazione, che ricade soprattutto sugli amministratori locali. Questo è il classico esempio in cui ogni comune, una volta che vi siano problemi di questo tipo storici, numerosi campi vicini o che interessano direttamente il comune, il sindaco si trova alle prese con il problema, ed è un problema con cui spessissimo la tentazione, più che comprensibile, di fronte alle legittime preoccupazioni dell'opinione pubblica che vuole sicurezza, che teme furti, che non vuole giustamente i bambini abbandonati per strada che chiedono l'elemosina, è quella di rispondere alla francese, per intenderci, cioè dicendo: ragazzi, in linea dura, ci sono tre principi europei per i quali se non si è al di sotto, se non si è al di sopra di un livello minimo di reddito dichiarabile e si è a carico quindi della fiscalità di un paese ospite, questo tra cittadini comunitari, è possibile l'espulsione e al limite anche l'espulsione coatta. Detto tutto questo, l'ANCI e i comuni italiani spesso hanno fatto presente come di fronte a numerose esperienze di integrazione di successo, ci sono casi soprattutto Padova, Bologna, ma anche Milano, Roma, progetti pilota volti a realizzare case, housing sociale per quelli tra i rom che vogliono insediarsi, politiche di inserimento dei bambini rom nelle scuole, di solito poco successo perché non c'è continuità dal punto di vista loro. Continuare a studiare significa non avere la possibilità poi nella loro comunità di vedersi riconosciuto qualche cosa. Comunque ci sono diverse esperienze pilota, ma il problema è quello delle risorse e della disomogeneità di questo tipo di risposta. Ognuno deve un pochino inventarsi con le risorse che ha una risposta nel proprio comune, e quindi la forbice si allarga e quindi il dibattito si apre, perché c'è chi è per la linea dura e c'è chi invece dice bisogna che ci inventiamo qualcos'altro. Allora, a Milano che cosa succede? Dopo queste polemiche le dichiarazioni, e partiamo proprio di qua, del vice sindaco Riccardo Decorato, confermate ieri anche dal sindaco Moratti al meeting di Rimini. Quindi iniziamo a riflettere su come una grande città come Milano ha affrontato questo fenomeno e come e se sia ancora necessario pensare a una linea dura alla francese. Abbiamo con noi Riccardo Decorato, che saluto e ringrazio. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Allora, il bilancio innanzitutto dell'esperienza in questi anni, a che punto siamo e cosa resta da fare secondo lei? Ma noi agiamo su due versanti. Ci sono a Milano 12 campi dove ci sono sinti e rom. Sinti sono italiani, metà di questi quindi sono italiani, l'altra metà sono rom di varia provenienza, e in questo caso noi stiamo cercando, attraverso le associazioni del volontariato cattolico, di smantellare questi campi, cercando dei percorsi di integrazione che vengono finanziati dal Ministero degli Interni attraverso il Comune di Milano. Poi abbiamo avuto nel 2007, a seguito dell'ingresso della Romania nell'Unione Europea, un'ondata di arrivi dalla Romania, dalla Bulgaria, dai paesi dell'est in generale, di circa 10.000 rom. Dal 2007 è iniziata una politica nei confronti di questi abusivi di allontanamenti, sgomberi, che ha portato il numero a ridursi agli attuali 1.200 circa abusivi. Quindi la situazione complessivamente sul territorio di Milano è di 1.300 circa sinti rom nei campi regolari, quindi persone che noi conosciamo chi sono, hanno un badge, non tutti, pochi mandano i figli a scuola, perché per i rom i bambini sono fonte di reddito e quindi mandarli a scuola lo fanno fino a una certa età, fino alla quinta elementare, ma dopodiché si perde traccia di questi ragazzi, che vengono dediti ad altre attività illecite ovviamente. Ma di questi 1.300 noi stiamo cercando, attraverso, ripeto, il volontariato cattolico, un inserimento, cerchiamo ovviamente anche lavorativo, e questo si sta tentando di fare. Con gli altri 1.200 abusivi continua una politica di allontanamenti, di sgomberi, perché la città di Milano non può ospitare oltre le 1300 unità che sono quelle presenti nei campi regolari, altri abusivi. Vice Sindaco, nella documentazione dell'ANCI che faceva la sintesi delle esperienze delle diverse città, vedevo citato l'esperienza a Milano dell'utilizzo di mediatrici rom, cioè interne alla comunità, ma è un'esperienza che negli anni ha prodotto insomma risultati abbastanza significativi, cioè l'interrelazione con la rappresentanza della comunità, della parte diciamo così regolare, quella con cui quindi sono buoni rapporti, è una cosa che funziona dal punto di vista istituzionale, è affidata esclusivamente al volontariato, lei ha citato il volontariato cattolico, oppure istituzionalmente è andata avanti secondo un modello evolutivo positivo? Noi abbiamo nei 12 campi regolari, istituiti con delibera regolare da circa 20 anni, quindi risaliamo all'inizio degli anni 80, in questi campi abbiamo da circa 4-5 anni in ognuno di questi delle associazioni del volontariato cattolico che operano su mandato dell'assessorato ai servizi sociali e quindi operano come operatori, mediatori culturali con coloro che si vogliono integrare. Tenga presente che metà di questi sono italiani, sono sinti, abruzzesi, siciliani, campani. Molti di questi hanno casa nelle loro regioni di provenienza e noi stiamo provvedendo a rimandarli nelle loro regioni di provenienza, perché questi sono proprietari addirittura di alloggi in Abruzzo, in Campania, in Sicilia e dimorano a Milano in bungalow, casette a schiera costruite all'interno di questi campi, per cui si tratta di smantellarne. Noi abbiamo previsto entro fine anno 4 di questi campi all'interno dei quali ci sono persone, molti di questi sono proprietari addirittura di abitazioni, ripeto, parlo di italiani, persone che hanno carta d'identità italiana, nate a Milano, nate in Abruzzo, in Sicilia, in Campania. Quando si dice invece, come campeggiano sui titoli di oggi, e via i clandestini, avanti con l'ordinanza e via i clandestini, ci si riferisce rispetto a quello che fa la Francia a modalità di che tipo? Cioè analoghe, uguali, diverse? La Francia sta facendo, Sarkozy sta facendo una politica nei confronti di respingimenti, quindi di rimpatri coatti, nei confronti degli abusivi. Teniamo conto, ripeto, che la popolazione rom a Milano è di una parte che chiamiamola regolare, che vive nei campi regolari, quindi persone che a cui abbiamo fatto firmare un patto di legalità, che hanno accettato delle determinate regole all'interno di questi campi, anche se non sempre vengono rispettate, ma diciamo all'80% queste regole vengono fatte rispettare. Poi ovviamente all'interno di questi campi c'è una buona parte di questi che mandano i bambini a scuola fino alla quinta elementare, poi non li vediamo più, e una parte che addirittura non proprio rifiutano l'integrazione scolastica. E quindi la politica dei respingimenti, dei rimpatri coatti, è fatta nei confronti degli abusivi. Cioè noi non possiamo avere decine di campi abusivi intorno alle periferie di Milano che procurano problemi seri a coloro che risiedono, perché quando si insedia un campo abusivo le case, le abitazioni dei milanesi che abitano intorno a questi campi sono oggetto di visite notturne, diurne, vengono svaligiate, ci sono i box dove le auto vengono sistematicamente derubate, depredate, cioè c'è una specie di attività predatoria nei confronti dei residenti che questi campi abusivi ovviamente creano immediatamente appena si insedia. Ma allora io ringrazio intanto il vice sindaco Decorato, perché non so quanto altro tempo abbia perché è impegnato in attività istituzionali, non lo voglio trattenere oltre, ma insomma noi siamo partiti da quello che trovate sui giornali di oggi e rispetto a ciò che è stato fatto a Milano illustrato dal Decorato negli anni precedenti. E il dibattito però istituzionale e le rappresentanze delle autonomie hanno avuto e continuano ad avere opinioni diverse su come affrontare la questione dei rom. Crohn e dei sinti. Abbiamo qui collegato per qualche minuto anche lui al da fare, io lo ringrazio per questo, Massimo Cacciari, il prorettore vicario dell'Università Vita Salute San Raffaele, già sindaco di Venezia, e ricordate tutti come proprio per una questione collegata al rapporto con Rom e sinti, era il 2009, Cacciari si batté come un leone quando un prefetto che era stato nominato da pochissimi mesi a Venezia, Michele Lepri Galerano, fu sollevato improvvisamente dall'incarico proprio perché accusato di avere un approccio troppo comprensivo, troppo morbido, non abbastanza duro nei confronti del problema dei Rom e dei sinti. E a Cacciari chiediamo, nella sua esperienza di amministratore, poi di uomo di cultura, questa minoranza di cui si stentano ad avere coordinate comuni e che proietta in fondo alla retina del nostro occhio terrori ancestrali, nella sua esperienza noi abbiamo un modello positivo per affrontarlo, oppure anche noi ricadiamo in uno stereotipo di luoghi comuni e concretamente da una parte dichiariamo a livello europeo di voler integrare, dall'altra a livello concreto poi a chi si trova in trincea, gli amministratori, neghiamo risorse. Ricordo tutti che in Veneto è aperto un dibattito perché il Veneto era la prima regione italiana che alla fine degli anni 80 addirittura si è data una legge, interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti, che concede alle amministrazioni poi comunali qualche risorsa aggiuntiva. Il dibattito in Veneto è aperto perché oggi gli esponenti della Lega dicono, e avremo poi l'assessore all'identità veneta nella seconda parte della trasmissione, dicono che questa legge è da abolire. Allora Cacciari, nella sua opinione, i due aspetti, quello amministrativo e quello culturale della questione. Ma intanto vorrei dire, ho sentito le cose di Corato, che a Venezia quella polemica fu di bieca strumentalità da parte della Lega, perché a Venezia non si trattava di campi clandestini, si trattava di cittadini veneziani a tutti gli effetti, residenti a Venezia da anni e anni, seguiti, la quasi totalità dei bambini frequentava le scuole ed era perfettamente integrata, e si trattava di trasferirli da un campo del tutto incivile eccetera a condizioni civili in un campo nuovo, tutto qua. Quindi vede che c'è da parte soprattutto della Lega una totale strumentalità nell'affrontare le questioni. Non si trattava di concedere spazio ai clandestini, e noi li respingiamo esattamente come fanno a Milano, ma sta di fatto che è una forza politica che rifiuta di ragionare sul tema, soprattutto quando è all'opposizione. Poi a Milano sarà diverso, ma quando è all'opposizione si rifiuta di ragionare sul tema e sfrutta in modo biecamente politico, strumentale, situazioni che creano comunque sempre disagi, perplessità, dubbi presso la popolazione, diciamo così, indigena. Detto questo, cioè dicendo quindi che la situazione a Veneto è una situazione assolutamente normale, è assolutamente comparabile a quello che giunti di centrodestra hanno fatto a Milano, a Roma, eccetera, e ovunque. E detto questo, non c'è alcun dubbio che in questo paese non siamo in alcun modo pronti ad affrontare questo cambiamento epocale. Le nostre società saranno sempre più società, diciamo pure una brutta parola, meticce. È inevitabile che ciò accada e noi non siamo assolutamente preparati a società multietniche, multireligiose, multiculturali, non lo siamo nel modo più assoluto. Vi è una forza politica che rifiuta questa prospettiva in modo totalmente cieco e per scopi ovviamente di crescita politica propria, ma non è questo che preoccupa. Preoccupa sicuramente, anche in situazioni relativamente avanzate come quella veneziana, una arretratezza culturale, psicologica da parte della popolazione che non segue, c'è poco da fare, che non segue una politica di integrazione anche quando è condotta, come nel caso di Venezia, nella più perfetta legalità, nel più totale rispetto di regole, eccetera, eccetera. Questa è la situazione. Ora speriamo che attraverso appunto soprattutto il lavoro del volontariato cattolico e non, gli appelli anche della Chiesa e le persone intelligenti, siano di destra che di centro che di sinistra, le persone intelligenti che riconoscono che questa prospettiva è inevitabile per ragioni economiche, sociali, perché in un mondo globale dove circola ovunque il denaro, circolano necessariamente dovunque anche le persone, e non c'è nulla da fare. Allora si tratta di assumere questo come un dato, una variabile fissa, e intorno a questo costruire politiche di integrazione intelligenti, che non significa aprire le frontiere, ma politiche di integrazione intelligente, quindi anche di integrazione culturale. La presenza di queste persone competenti che mediano culturalmente tra le popolazioni, chiamiamole indigene, e quelle che extracomunitarie, non era il caso dei Sinti di Venezia, che erano assolutamente veneziani da una generazione. Ecco, ma queste persone possono svolgere una importantissima funzione, ma bisogna avere le risorse per fare politiche di integrazione. E non sono gratuite le politiche di integrazione, si fanno con la buona volontà, anche il cosiddetto volontariato, ma è un volontariato per modo di dire, perché il volontariato costa anche quello, perché noi diciamo volontariato, ma questi cosiddetti volontari, poi i comuni, soprattutto i comuni, devono in qualche modo sostenerli, perché non possono svolgere un lavoro perfettamente gratuito, non esiste. Quindi queste politiche di integrazione costano, e i comuni, proprio su questi temi, le risorse dei comuni, i trasferimenti ai comuni su questi temi sono stati falcidiati. Faccio di nuovo l'esempio di Venezia. Il nuovo campo Sinti era stato progettato insieme alla regione di centrodestra 10 anni fa con Galan. Io stesso avevo in una mia precedente mandato, l'avevamo progettato insieme, finanziato insieme. Poi, non per colpa di Galan, ma per colpa che i trasferimenti vengono meno, le risorse da parte della regione sono sparite. E il comune di Venezia ha dovuto addossarsi, farsi carico integralmente dell'investimento, suscitando le ire della Lega. Come si spendono i soldi per il campo Sinti e non si spendono i soldi per i veneziani? Ovvio, conseguenza ovvia, per cui appunto dove io ho voluto fare il campo Sinti, la mia amministrazione alle elezioni poi è stata perso. Chiaro che si paga il prezzo di chi facilmente dalle banche dell'opposizione a quel punto dice chiaro. Bene, abbiamo sentito anche l'esperienza di Cacciari, ora ci tocca la borsa, la pubblicità, poi alla ripresa un pochino di domande, perché io sono d'accordissimo su tutto, ma aggiungo, c'è una dimensione specifica della questione Rom Sinti che mi ha portato a studiarla anni fa. Io sono convinto che noi abbiamo un problema vero nel capire la loro cultura, la loro religiosità, la loro organizzazione, il fatto del nomadismo, abbiamo un problema su tutto questo, e infatti è un problema comune in tutta Europa, ed è alla radice di quello che poi decenni fa è stato fatto agli zigani, agli zingari, chiamateli come volete, io non li chiamo così, nel senso che io sono cresciuto in un quartiere che all'epoca era la strana periferia di Torino, in cui nei primissimi anni 60 venivano a mettere i campi, e io da ragazzino ero molto curioso, devo dire la verità, e ci giravo intorno, ci entravo dentro, mi buttavo a giocare con quelli che accettavano di giocare con me, ero molto curioso di capire chi erano queste persone così diverse in apparenza da noi, e sono rimasto molto colpito e affascinato poi da quello che ho capito frequentando lì. E ho un'idea molto diversa da quella che apparentemente, per esempio, nell'elettorato del centrodestra si ha di che cos'è davvero la loro cultura, la loro maniera di vivere, di concepire la vita, per esempio, che per loro è sacra, molto più di quanto non si creda e non si pratichi nella nostra mentalità, nella nostra cultura. È complicate le reazioni puntute dei nostri ascoltatori, ma me le aspettavo, e apposta sto inoltrandomi su questo terreno oggi tenendo il tono molto basso, molto più basso di quanto non lo tenga abitualmente, perché già è un tema che spacca, divide e arroventa le opinioni. Non è il caso che chi fa informazione si metta ulteriormente a gettare benzina. Vi faccio capire perché dico questo. Alcuni degli sms che sono arrivati, non capisco perché se mando mio figlio di 5 anni a lavorare, ci dice un ascoltatore, arrivano gli assistenti sociali e me lo tolgono subito, io mi becco una denuncia, per loro invece non succede mai nulla. A Palermo c'è una famiglia rom in ogni semaforo, sono un'infinità e non sono più nomadi da 3 o 4 generazioni. E a quel punto cosa facciamo? Li integriamo e spendiamo per loro? Chiede un nostro ascoltatore, si firma da Palermo. Oppure un altro ascoltatore, in questo caso dal Veneto, perché incaponirsi a sprecare tempo e denaro per parassiti criminali che di fatto non vogliono integrarsi ma continuare a vivere nell'impunità a spese della gente per bene? Ecco, questo è il tipo di reazioni che io capisco benissimo e comprendo, perché il problema è che l'isonomia, che è un vecchio valore fondante della democrazia, si trova nelle orazioni di Lisia, di Demostene, ecco, che è il comportamento secondo criteri analoghi, omologhi, il più possibile uguali della legge nei confronti dei cittadini, e fa a pugni con diversità irriducibili di questa etnia, che infatti non a caso ha gli stessi problemi in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea. Allora la questione diventa: l'isonomia e l'omogeneità dei criteri, quella giustamente invocata dai nostri ascoltatori oggi, come fai conti con chi ha una tradizione, valori, organizzazione sociale, valore di che cosa sia il lavoro, di che cosa non sia il denaro, completamente diversi dalla nostra? Ecco, questo è il punto culturale, antropologico, con cui la questione ci chiama alle prese. Uno può decidere di spaccare il nodo gordiano con la spada e dire peccato per loro. Certo, dimentica un bel pacco di migliaia di anni di storia. Oppure può decidere che invece la diversità rispetto all'isonomia obbliga ad atteggiamenti di integrazione proposta, che spesso è molto complicato poi attuare da parte loro, e che ha bisogno di un lungo lavoro di mediazione, di fiducia reciproca, ecco, di fiducia più che di forza. Con la forza io sono dell'idea che con questa comunità si ottenga più che altro il radicamento reciproco, loro nei nostri confronti e nostri nei loro confronti, di pregiudizi che affondano la loro storia in passati forse non da ricordare con eccesso di contentezza. Però questa è la mia opinione. Sentiamo alcuni ascoltatori con le loro telefonate e poi torniamo ai protagonisti sul campo della risposta istituzionale. Iniziamo con Domenico da Pescara. Come la pensa, Domenico? Ma io le dico buongiorno innanzitutto. Io le dico solo questo. Le faccio l'esempio di Pescara. Pescara c'è una comunità rom che è integrata, nel senso che sono tutti quanti residenti, hanno quanti la cittadinanza italiana di Pescara. Negli anni 60 sono stati dati a loro degli alloggi e probabilmente tolti ad operai che lavoravano. Loro dagli anni 60 a oggi potevano benissimo avere un'integrazione, lavorare, andare a portare i bambini alle scuole e tutto quanto. Invece non hanno fatto altro che vivere di espedienti, di rubare, imbrogli, usura, e adesso attualmente non fanno altro che lavorare con droga e omicidi. Lei vede le pagine del centro, tutti i giorni ci sono questioni di droga e ci sono sempre le solite famiglie che praticamente rom che fanno questo lavoro qua. Quindi lei dice a Pescara il tentativo di integrarli è fallito, denari pubblici e case, ma insomma il risultato è negativo. Solo se lei vede, praticamente vanno in giro con Mercedes, Porsche, BMW, hanno ville da stratosferiche e non vengono mai controllati. Ecco, questo è un altro aspetto, perché dice, come, caro Gianni, tu dici che quelli non contano i soldi, poi c'hanno i macchinoni, macchinoni che spesso poi provengono da scambi non so quanto regolari all'interno delle loro comunità, e che spesso sono anche riciclaggio di macchine rubate, chiarissimamente. D'accordo, sentiamo come la pensa Francesca da Roma. Buongiorno, senta, io chiamavo per un quesito. Sentivo parlare di mediazione culturale, fermo restando che secondo me la mediazione si fa nei confronti di chi ha bisogno e necessità e volontà di integrarsi. Mi sembra che queste persone vivano in uno stato di parassitosi sull'ambiente, per cui è come cercare di voler integrare, cioè ci sono delle specie che non vogliono essere integrate, e mi sembra che queste siano le persone che nella loro devianza, perché l'origine è quella che sappiamo tutti di persone stupende. Francesca, però io la invito, un secondo, Francesca, mi ascolta, Francesca, ecco, un secondo, non la volevo interrompere per levare la parola, solo farle notare che ha usato la parola specie e la parola devianza. Ecco, questa cosa, l'invito solo a riflettere, specie, capisci? La parola specie la si usa quando si ha a che fare, non credo con, ecco, lei ha usato la parola specie, che è sicuramente un riflesso condizionato, non le attribuisco alcuna intenzionalità razzista. Però questi argomenti bisogna avere, per così dire, l'attenzione un po' più elevata. Quindi tutto qua, era un'osservazione. Ma la diversità che loro esigono e che manifestano, ma non tanto manifestano quanto esigono, nel volersi considerare diversi da noi, ne fa sì di essere specificamente diversi, o sbaglio? Ah, ma la specie, quando si applica al genere umano, l'ho inteso in questo senso. Vabbè, no, beh, non è una polemica, guardi, io le sto dicendo. No, perché i termini a ragione possono essere, anche perché il mio intervento era proprio per cercare di capire, e difatti chiedevo questo. Visto una situazione spiacevole capitata a mio figlio, che non so sinceramente come portare avanti ed educare in questo frangente, la mediazione culturale può essere utilizzata anche da noi, diciamo, italiani non di razza rom, per cercare di educarci verso di loro? Perché mio figlio è stato rapinato da dei bambini e i carabinieri non volevano nemmeno entrare nel campo rom. Mio figlio è voluto entrare insieme a me, che volevo, hanno trovato le persone responsabili e mi è stato detto: no signora, sa, questi vivono così, i figli sono stati tolti, poi se no glieli tolgono di nuovo, bisogna fare, poi abbia pazienza, lei abita qui vicino, non vorrà mica. Questo è la forza dell'ordine. Allora mio figlio ha avuto una tristissima esperienza in un momento adolescenziale, io ho timore che in un caso simile, visto che si è scritto, ha pugilato, ha fatto, perché è una persona molto tranquilla, ha sofferto molto di questa cosa, come penso che soffriranno tutti gli altri che subiscono abusi di questo, e non si sentono tutelati. Perché la legge, la legge forse li tutela, ma le forze dell'ordine no. E allora mi chiedo: c'è possibilità di poter effettuare una mediazione culturale? Ecco, e noi adesso le facciamo rispondere dall'esperienza di chi tenta sul campo di svolgere. Ancora una telefonata, Guglielmo da Modena. Francesca, lei ha utilizzato alla fine anche la parola razza, eh? Ecco, io mi limito a osservare che le parole sono pietre quando si tratta di diversità che sono culturali, non sono di razza. Questa è la mia opinione, ma non è solo la mia, le posso garantire che bisogna stare un po' attenti. La razza, lasciamola a chi per razza faceva Arbeit macht frei. Ecco, perché siccome è successo una storia proprio a loro e lo abbiamo fatto noi europei, e allora forse bisogna starci attenti. Guglielmo da Modena. Buongiorno, le faccio complimenti per la trasmissione innanzitutto. No, io parlo per esperienza. Io abito in un comune di 25.000 abitanti e ci abito di fronte a un campo nomade. Qua da noi sono 60 anni che l'amministrazione è monocolore, quindi vorrei un po' anche controbattere all'ex sindaco Cacciari. E comunque io parto dal presupposto che notoriamente di sinistra, insomma, ecco, voglio dire, aggiungiamolo, sì, per quei pochi che non si ricordassero che a Modena, ecco, vabbè. Allora dica, lei in questa esperienza? No, io sono del parere che l'integrazione parte prima dai doveri che dai diritti, e secondo me il dovere è mandare i figli a scuola, avere un lavoro regolare e comunque una condizione di vita, come poter dire, normale, come quella che abbiamo tutti. E questo a me sembra che manchi, ed è una volontà che ci deve essere da parte della popolazione rom o sinti, quale sia. E io comunque le dico, abitando di fronte, io di problemi non ne ho mai avuti, perché sarebbe anche stupido andare a rompere le scatole al vicino. Però mi è capitato di vederli venire nelle aziende agricole a chiedere il ferro. Secondo me non è un lavoro normale questo, e spesso e volentieri i furgoni vengono pagati dal comune, il gasolio gli viene dato al comune, l'assicurazione gli viene data dal comune sempre che ci sia, e secondo me questa non è una buona base di partenza per l'integrazione. Chiarissimo, grazie anche per questa esperienza da Modena. Sentiamo un rappresentante dei rumeni, e dei tantissimi rumeni che sono in Italia. Spesso ci sono problemi anche con la comunità rumena, ma è molto particolare sentire loro cosa pensino dei rom. Abbiamo Catalin che ci chiama da Padova, prego, dica. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto complimenti per la trasmissione, complimenti a tutta Radio 24 che ascolto sempre. Volevo dire una cosa. Allora, credo che sono. Io ho vissuto 22 anni in Romania e quindi ho visto un po' la comunità anche prima che cadesse tutto il regime comunista. E mi ricordo ancora adesso come era gestita un po', non in totalità, perché c'erano ancora dei, diciamo, dei Rom che non lavoravano, però la maggior parte dei Rom ai tempi era impegnata, facevano dei lavori socialmente utili, se non sapevano fare un mestiere gli si dava una scopa in mano e lavoravano per il comune. Mi ricordo ancora adesso che stavano spacciando tutti i marciapiedi del comune, insomma, della mia città. Avevano uno stipendio ed erano anche obbligati ad avere una residenza. E purtroppo la legge in Romania, la legge penale, sto parlando, è un po' più drastica rispetto alla legge italiana. E secondo me questo buonismo che c'è in Italia, ma non solo in Italia, anche in Europa, anche in Francia, perché sto facendo un lavoro che mi consente di vedere un po' tutta Europa e ho visto che anche in Francia è uguale all'Italia, cioè, anche forse peggio. Purtroppo il buonismo per loro è una cosa da aggiustare, che per quello che succede adesso con la Francia, che gli si dà 300 euro a testa per tornare in Romania, più gli si paga anche il volo, secondo me è solo un'opportunità di farsi una vacanza, dopodiché tornare di nuovo in Europa. Grazie a Katalin, grazie a Katalin. Ecco, questo punto voi non avete capito come si trattano. In Romania li abbiamo sempre trattati con un pugno di ferro, è uno degli argomenti più ricorrenti su cui riflettere. Allora, io comincerei con il presidente dell'Opera Nomadi di Padova, perché tutte le telefonate hanno girato intorno alla questione, sì, mediazione culturale, ci dice Giannino e ci ha detto Cacciari, però sta mediazione culturale perché dobbiamo riservarla con fondi pubblici solo a loro? E poi concretamente funziona davvero? Perché le telefonate sembrano dire assai più di no che di sì. Allora, Paolucci, Renata Paolucci, presidente dell'Opera Nomadi di Padova, nell'esperienza a Padova, che è una di quelle citate come banco di prova a livello nazionale, nelle città che da più lungo tempo si misurano con politiche di integrazione di Rom e Sinti, nella sua esperienza funziona questa mediazione culturale? Sì, io sono Renata Paolucci, presidente dell'Opera Nomadi di Padova, vi ringrazio per avermi chiamato perché voglio parlare un attimo dell'esperienza di Padova. La mediazione a Padova e l'integrazione sta funzionando, però devo dire che da anni noi lavoriamo assieme al Comune di Padova per il superamento dei campi nomadi, perché tutta la nostra associazione è contro l'esistenza dei campi nomadi e lavoriamo soprattutto in un progetto di integrazione scolastica con i nostri operatori e con i nostri mediatori culturali, per cui abbiamo portato l'evasione scolastica dei bambini al 5%, l'evasione scolastica, quindi il 95% va a scuola, prende la terza media e molti si iscrivono alle scuole superiori, ai corsi professionali. Io volevo parlare di un progetto che è stato portato avanti a Padova e che ha avuto un ottimo successo, che è il progetto di autocostruzione da parte dei Sinti di alloggi per di Sinti giostrai e ex giostrai per di alloggi appunto per chiudere il campo dove vivevano e per poter finalmente vivere in una casa. I Sinti non per cultura non vanno negli alloggi ATER, nei condomini. Quindi abbiamo pensato assieme a loro di far costruire, che loro costruissero, autocostruissero le loro case, le casette, tre casette per 12 persone, per 12 famiglie, scusate, tre famiglie allargate, tutte imparentate tra loro, e che finalmente venisse chiuso il campo nomadi. A Padova ne esistono due campi nomadi. Questo è già stato chiuso, il progetto è stato presentato nel 2006, il progetto sociale dall'Opera Nomadi dei Sinti, è stato accettato dal Comune, c'è stata una delibera da parte del Comune per cui insomma è stata approvata, è stata fatta una variante del piano regolatore, i Sinti prima di cominciare a lavorare hanno frequentato un corso di formazione per muratori che poi alla fine ha rilasciato un attestato e nel 2009 i lavori sono cominciati nel 2008, nel 2009 le case sono state consegnate ai Sinti e adesso loro ci vivono tranquillamente Nella vostra esperienza, coloro che poi accettano l'insediamento fisso, poi trovano una modalità. Trovano poi la casa, le cose di cui sta parlando a Padova, poi trovano una modalità di attività economica regolare, eccetera, eccetera. Oppure poi, come molte telefonate, tantissimi messaggi continuano a dirmi, qui il comune gli ha dato le case, loro continuano a fare vita di accattonaggio, rapine, eccetera. Tanto questi sono giostrai e ex giostrai, non fanno vita di accattonaggio, molti stanno lavorando, mandano regolarmente i figli a scuola e è molto più facile per loro trovare lavoro se sono insediati in casa. Quando continuavano a vivere nei campi nomadi e cercavano lavoro, i datori di lavoro proprio per principio li negavano. Lo negavano. Quindi quello che voglio dire io è che se vengono attivati dei progetti seri che si portano avanti per anni e soprattutto di mediazione, sicuramente si ottengono dei successi. Noi vediamo per esempio per quanto riguarda la scolarizzazione, che adesso c'è la scolarizzazione della seconda generazione scolarizzata, che già è molto più facile fare in modo che i bambini vadano a scuola. Questo parlo che i genitori l'hanno già frequentata. Io parlo naturalmente non solo di Sinti, parlo anche degli altri Rom che esistono, dei Rom che esistono a Padova, nell'altro campo che poi verrà sistemato col tempo anche quello, perché i fondi ci sono, un pochi perché sono rimasti dai soldi delle case autocostruite e un po' che sono stati stanziati anche da Maroni, dal ministro Maroni. Io vedo appunto che questo discorso vale per tutti, cioè solo con progetti seri si riesce, che non devono andare, cioè che non devono essere per sempre, non devono durare per sempre, devono a un certo momento terminare. Devono terminare perché poi dice arriva una fase di integrazione in cui il problema si è avviato a soluzione. Naturalmente però c'è chi sostiene che più si stanziano risorse, più si avviano progetti eccetera eccetera, più poi si attira e si espande il fenomeno. E questo è un altro radicalmente diverso punto di vista, ma che è un punto di vista molto forte, perché ripeto, l'atteggiamento del più, sicuramente della netta maggioranza, qualunque sia il sondaggio, qualunque sia la votazione politica, l'opinione pubblica dice isonomia, vogliamo essere trattati ugualmente, loro invece gli si consente di fare cose che se facciamo noi finiamo in carcere. Questa è la reazione maggioritaria dell'opinione pubblica, non tocca a me definirla. Io penso che si debba approfondire culturalmente, però di fronte a questo c'è chi dice più moltiplichiamo i soldi e gli interventi, più è un po' come dare il miele per attirare poi gli orsi, quelli a cui piace il miele. Allora, abbiamo qui l'assessore per l'identità veneta della regione Veneta, Daniele Stival, che da anni su questi temi, per esempio, sostiene esattamente cose di questo genere. Cioè, dice, noi abbiamo una legge regionale in cui bisogna fare gli interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti. Ci sono già le risorse europee mediate dai ministeri nazionali, perché dobbiamo spendere anche in più? Si definiscono italiani, vogliono essere italiani, e allora se siano italiani non c'è bisogno di politiche differenziate per loro. È un po' questa la sua impostazione, assessore Stival, o nella sintesi sono stato troppo paradossale? No, buongiorno a voi. La sintesi è quella corretta e giusta. Noi abbiamo avuto una legge per la tutela dei Rom e dei Sinti in Veneto che per 10 anni, pur finanziandola, non ha funzionato, e negli ultimi 8 anni non l'abbiamo più finanziata, per cui abbiamo ritenuto opportuno presentare delle proposte di legge per abrogarla, per un motivo secondo poi, che in questi ultimi 20 anni queste popolazioni sono state tra virgolette integrate, nel senso che hanno la cittadinanza italiana, perché sono italiani come noi, come tutti i veneti o come tutti gli italiani, e per cui devono avere gli stessi diritti, secondo noi, stessi diritti, stessi doveri di qualsiasi cittadino italiano. Hanno il diritto, come tutti i bambini, di andare a scuola, appunto, i loro figli, hanno tutti i diritti degli italiani e non vedo perché devono avere ulteriori diritti. In un momento poi di crisi economica come questa, in cui i veneti, parlo della regione Veneto ovviamente, ovviamente hanno le loro esigenze, i loro problemi, come anche Rom e Sinti, e non capiamo perché dobbiamo dare risorse aggiuntive a chi è con cittadino italiano come noi. Certamente, dal suo punto di vista e nella sua esperienza, per come ha visto evolversi il problema nelle diverse aree, nei diversi centri urbani che hanno diverse esperienze e anche diverso segno politico, Padova, insomma, rispetto, sto parlando del sindaco, rispetto agli altre amministrazioni in cui l'avanzata poi leghista, non solo del centrodestra, è stata fortissima in questi ultimi anni, e quindi voi oggi sicuramente siete praticamente egemoni, non solo maggioritari, ma alla luce di tutto questo, lei pensa che la linea dura, per capirci, siamo partiti dalla Francia e dalla dichiarazione di Decorato, vice sindaco di Milano, che diceva fare come in Francia, la linea dura serva anche a levare dal problema tutte queste incrostazioni culturali di troppo, perché probabilmente fanno sembrare un problema su cui poi non si applica davvero la legge a furia di fare eccezioni culturali, e quindi la linea dura è meglio anche per questo? Oppure lei dice c'è uno specifico culturale, ma la questione non è quella dei denari pubblici e della differenza per affrontarlo? Ma è troppo comodo mantenere e sostenere determinate culture, se dobbiamo dire che ci sono delle culture appunto diverse e ben vengano, con risorse pubbliche, mentre ad esempio se vogliamo proporre delle risorse per la cultura veneta, per studiare la storia della Serenissima, apriti cielo, andiamo contro l'unità italiana. Cioè, ci sono concetti che, se applicati a persone tipo i Rom, gli extracomunitari, cioè il buonismo verso determinate certo. persone, va bene. Il buonismo fatto o le proposte fatte nei confronti dei cittadini italiani o dei cittadini veneti, allora diventa razzismo nei confronti degli altri. Io da Veneto vedo che se ho delle differenze, nel senso che mi vengono date meno opportunità di altre realtà anche non Veneto, c'è una forma di razzismo nei miei confronti. E infatti devo dire che io su questo la penso come lei, perché siccome nella storia italiana concreta, nel nostro ordinamento come si è evoluto, noi riconosciamo lo status di minoranza etnica solo a quelle praticamente che sono state tutelate dal punto di vista linguistico per via degli statuti speciali contrattati con i paesi limitrofi, sto parlando del Trentino Alto Adige. Questo è un problema, perché poi noi non abbiamo riconosciuto come minoranza al nostro interno chi lo è davvero per storia, lingua eccetera. Non lo facciamo neanche nei confronti dei Rom e dei Sinti, come ci chiederebbe la direttiva europea. Però è un po' singolare che noi riconosciamo lo status di minoranze etnico-linguistiche solo a coloro di cui abbiamo avuto un problema da risolvere dopo la Seconda Guerra Mondiale, come se non fossero invece altri completamente diversi i criteri. Ed ecco quindi che ci riconosciamo in un problema di disconoscimento interno delle nostre minoranze nei confronti di una minoranza che circola non avendo stanzialità territoriale. Un bel paradosso culturale. Oggi sono stato meno tagliente del solito, ma la mia opinione è che questi sono problemi molto molto delicati e potenzialmente esplosivi, quindi un po' di responsabilità. Grazie a voi tutti, grazie regia Roberto Scaltritti, ad Alessandro Marco Tulli in redazione, linea Giornale Radio, appuntamento a domani.